Che sapore c'è? Ritorna con te. Ho nel cuore l'amore insieme a te. Ma con gli occhi vedo ancora lui con te. Che sapore c'è? Oggi c'è.